fatto, mettilo in loop. Stampo il mio logo su una fruit of the loom. Tu scarichi il mio tape e lo metti sui mule. La lady vuole andare giù giù, sul pavimento muove a tempo il fatti pum pum. Vieni con me, voglio insegnarti a fare kung fu. Per te ho la bomba qui, tu falle fare boom boom. Gyal, beviamo un altro margarita. Striscio verso il bar tutta la tua carta visa. Siamo borderline, attraversiamo la linea. In bombo bike o sull'autobus di linea. Se senti questo pezzo devi andare giù giù, sul pavimento muovi a tempo il fatti pum pum. Vieni con me, voglio insegnarti a fare kung fu. Per te ho la bomba qui, tu falle fare boom boom. Wicked wicked, porto le parole, porta il rhythm rhythm. Poi la selezione entrano solo le queen. Poi la selezione entrano solo le hit qui, solo le hit. Sono wicked wicked, porto le persone, porta free drink free drink. Poi la selezione entrano solo le queen. Listen, a me sei su you Rudy B. Ganja Chanel mentality, DJ Ash, top quality. Sogno palchi da calcare, invidioso, corro di come calcare. Creo spaccati di vita, racconto di ragazzi spaccati da una vita. Da quartiere a quartiere, sta roba vale come Cartier. Comprati la collanina Ganja Chanel, dammi una cartina o creme caramel. Caramello, se vieni qui di fianco a me e la fai, alza il volume dell'hi-fi, che c'è Mister Enti, volume 2. Le rime mie, meglio delle tue. Chiudo il pezzo, facile facile, non fare quella faccia e rimandare a capo la traccia. Wicked wicked, porto